Capitolo 18. Furono giorni allegri quelli a Thornfield Hall, giorni in cui tutti avevano da fare. Quale differenza con i primi 3 mesi di tranquillità, di monotonia e di solitudine che avevo trascorsi sotto il suo tetto. Ora i pensieri tristi sembravano tutti banditi dalla casa, dimenticati i penosi ricordi. Ovunque vi era vita e movimento da mattina a sera. Non si poteva attraversare la galleria, prima così silenziosa, né entrare nelle camere, prima così deserte, senza incontrare un'elegante cameriera o un inappuntabile domestico. La cucina, il tinello, l'ingresso di servizio, il vestibolo padronale erano ugualmente animati. I salotti rimanevano vuoti solamente quando il cielo azzurro e il sole terso di una bella giornata primaverile richiamavano gli ospiti all'aperto. Ma anche quando al bel tempo seguì qualche giorno di pioggia ininterrotta, il buon umore e l'allegria non diminuirono. Anzi, visto che non si poteva uscire, gli svaghi e i trattenimenti al chiuso si fecero più vari e più vivaci. Una sera qualcuno propose, per cambiare, di giocare alle sciarade, ed io, che non sapevo che cosa significasse quella parola, attesi incuriosita di assistere al nuovo gioco. Furono chiamati i servi per togliere la tavola dalla sala da pranzo, fu cambiato posto ai lumi e le sedie vennero collocate in semicerchio davanti all'arco. Mentre il signor Rochester e gli altri signori dirigevano questi preparativi, le dame correvano avanti e indietro dalle camere al salotto, chiamando le cameriere. Fu interrogata la signora Fairfax per sapere di quanti scialli, vestiti, stoffe disponesse il guardaroba della villa, e poi si saccheggiarono gli armadi del terzo piano. Ne uscirono abiti di broccato, gonne con i cerchi, camicette di raso, sciarpe di trina, che le cameriere portarono abbracciate al pian terreno. Là fu fatta la scelta, poi gli indumenti giudicati adatti vennero riposti nel salottino attiguo alla grande sala. Frattanto il signor Rochester aveva di nuovo riunito le dame attorno a sé per sapere chi tra loro volesse prender parte alla sciarada. La signorina Ingram mi aiuta certamente, disse, poi nominò le due sorelle Ishton e la signora Dent, alla quale in quel momento io stavo allacciando il braccialetto. Allora, guardandomi, domandò anche a me: vuol recitare? Scrollai la testa e lui non insistette come invece avevo temuto. Così potei tornarmene tranquillamente al mio solito posto e lo vidi ritirarsi dietro il cortinaggio con gli altri partecipanti, mentre il resto della compagnia, capeggiata dal colonnello Dent, andava a sedersi davanti all'arco. Uno di loro, il signor Ishton, gettandomi un'occhiata, chiese piano agli altri se non si dovesse farmi posto, ma la signora Ingram rispose subito: no, ha l'aria troppo stupida per capire qualche cosa. Dopo un po' si sentì suonare un campanello e la tenda fu alzata. Sotto l'arco si vide il massiccio Sir George Lynn, uno dei prescelti dal signor Rochester, avvolto in un lenzuolo bianco. Un libro era aperto sopra un tavolo davanti a lui e al suo fianco stava in piedi Amy Ishton, coperta dal mantello del signor Rochester e con un libro in mano. Qualcuno suonò di nuovo il campanello e Adele, che aveva insistito per partecipare al gioco, comparve correndo e spargendo intorno i fiori contenuti in un cestino. Allora si fece avanti la splendida figura della signorina Ingram, paludata di bianco e con un lungo velo sul capo inghirlandato di rose. Al suo fianco camminava il signor Rochester ed entrambi si avvicinarono al tavolo. Là si inginocchiarono mentre la signora Dent e Louisa Ishton, pure bianco vestite, prendevano posto dietro a loro. Seguì una cerimonia muta, nella quale fu facile riconoscere la pantomima di un matrimonio. E terminata che fu, il colonnello Dent, dopo aver consultato i suoi compagni, disse ad alta voce: sposa! Il signor Rochester si inchinò e la tenda ricadde. Passò un po' di tempo prima che si rialzasse ancora, ma questa volta la scena era preparata con maggior cura. Il salotto, come ho detto più addietro, era di 2 gradini più alto della sala da pranzo e sul gradino superiore, un po' arretrato, si scorgeva un grande bacino di marmo, nel quale riconobbi la vasca dei pesci rossi che di solito stava nella serra in mezzo alle piante esotiche e di certo non era stata trasportata sin lì senza fatica, dato il suo peso e le sue dimensioni. Seduto sul tappeto di fianco al bacino, stava il signor Rochester tutto ravvolto in scialli e con un turbante in testa. In quel costume che si addiceva molto ai suoi occhi neri e al suo scuro volto di pagano, sembrava un emiro asiatico, un agente o una vittima della corda da impiccagione. La signorina Ingram avanzò verso di lui, vestita pure all'orientale, con una sciarpa cremisi attorno alla vita, un fazzoletto di pizzo sui capelli e le belle braccia nude, di cui una alzata nell'atto di sostenere l'anfora posata sul suo capo. Sia il portamento che le fattezze e l'incarnato la facevano sembrare una principessa ebrea del tempo dei patriarchi, e senza dubbio era quello il personaggio che doveva rappresentare. S'accostò al bacino, vi si curvò sopra come per riempire l'anfora. Stava per rimettersela in testa quando l'uomo seduto per terra le fece con la mimica una domanda. Con sollecitudine ella accostò l'anfora alle sue labbra, gli diede da bere e l'uomo, togliendosi di sotto le vesti un cofanetto, l'aperse e mostrò alla fanciulla magnifici braccialetti ed orecchini. Ella diede a divedere la sua meraviglia e ammirazione e lo straniero, inginocchiandosi, posò ai suoi piedi quel tesoro. Il viso e i gesti di lei espressero incredulità e contentezza, poi l'uomo le allacciò i braccialetti attorno ai polsi e le appese le buccole agli orecchi. Erano Elisir e Rebecca al pozzo, nel quadro non mancavano che i cammelli. Di nuovo gli spettatori si consultarono, ma non riuscirono a mettersi d'accordo sul significato della scena e il colonnello Dent, parlando per tutti, richiese il quadro completo. Su di che il sipario fu calato. Quando si alzò per la terza volta, si vide soltanto una parte del salotto. Il resto era celato da un paravento, ricoperto alla meglio con un oscuro drappeggio. Il bacino di marmo non c'era più, e a suo posto si vedevano una tavola d'abete e una sedia da cucina. La scena era fioccamente illuminata da una lanterna di corno e le candele erano tutte spente. Al centro di quel misero quadro stava seduto un uomo con le mani abbandonate sulle ginocchia e gli occhi fissi al suolo. Nonostante la truccatura, le vesti in disordine, la giubba perdeva una manica come se fosse stata strappata in una zuffa, l'atteggiamento disperato e i capelli ritti, riconobbi subito in lui signor Rochester. Quando si mosse, si udì un rumore di catene e infatti aveva i ceppi ai polsi. Bridewell! Esclamò il colonnello Dent e capì che la sciarada era risolta. Bridewell, il pozzo della sposa, era il nome di una casa di pena. Quando gli attori si furono rivestiti dei loro abiti consueti, ricomparvero in sala da pranzo. Il signor Rochester dava il braccio alla signorina Ingram, che stava complimentandolo per la sua interpretazione. Sa, gli disse, che delle tre parti che ha rappresentato la preferisco nell'ultima. Se lei fosse nato qualche anno prima, che galante bandito gentiluomo sarebbe stato. Mi sono ripulito bene dalla fuliggine? Chiese egli voltandosi verso di lei. Purtroppo sì, ed è un vero peccato perché stava bene con quella truccatura da brigante. Allora lei sarebbe pronta ad amarne uno? Sì, ma un brigante inglese preferirei un bandito italiano e a quest'ultimo un pirata levantino. Ebbene, chiunque io sia, si ricordi che ora è mia moglie. Ci siamo sposati un'ora fa alla presenza di questi testimoni. Ella arrossì e si mise a ridere. Dunque, Dent, riprese il signor Rochester volgendosi al colonnello, ora aspetta lei. E quando il colonnello si ritirò con i propri attori, egli si sedette con gli altri sulle seggiole vuote. La signorina Ingram prese posto alla destra del padrone di casa, gli altri ai loro lati. Da quel momento non feci più attenzione alle sciarade. Gli spettatori mi interessavano di più e i miei occhi, prima fissi sulla scena, ora erano attratti irresistibilmente dal semicerchio delle sedie. Non ricordo quali sciarade scegliesse il colonnello e come se la cavassero lui e i suoi attori, ma odo ancora le conversazioni che tennero dietro ad ogni scena. Vedo ancora il signor Rochester volgersi verso la signorina Ingram ed ella verso di lui, inclinando il capo fino a sfiorargli il volto e la spalla con i ricci neri. Odo i loro bisbigli, rammento gli sguardi che si scambiavano e riprovo perfino gli stessi sentimenti che si agitavano in me a quello spettacolo. Ti ho detto, lettrice, che avevo preso ad amare il signor Rochester. Ed ora non potevo non amarlo soltanto perché mi ero accorta che egli non si curava più di me, perché riusciva a stare ore e ore senza mai volgere gli occhi dalla mia parte, perché tutta la sua attenzione era tratta da una grande dama che sdegnava di sfiorarmi anche solo con il lembo del vestito, che posando per caso la sua nera e imperiosa pupilla su di me subito la distoglieva come da un oggetto troppo insignificante per meritare un suo sguardo. Non potevo cessare di amarlo perché intuivo che presto avrebbe sposato quella dama, perché leggevo ogni giorno in lei l'altera sicurezza del trionfo, perché infine notavo nel signor Rochester una galanteria tanto più irresistibile, quanto più noncurante, tanto più affascinante, quanto più orgogliosa. Non vi era nulla in questi fatti che potesse raffreddare o distruggere l'amore, bensì molto che poteva generare la disperazione, ed anche, come tu, lettrice, immaginerai, la gelosia. Ammesso che una donna della mia condizione potesse essere gelosa di una dama come la signorina Ingram, ma non ero gelosa, o perlomeno lo ero soltanto talvolta. La natura della mia sofferenza non poteva essere espressa da quella parola. La signorina Ingram era al di sotto della mia gelosia, era troppo inferiore per suscitare in me quel sentimento. Scusatemi per questo apparente paradosso. Intendo esprimere ciò che dico. Ella era molto appariscente, ma non genuina. Era bella e dotata di molte brillanti qualità, ma povera di mente e arida di cuore. Nulla fioriva spontaneamente su un simile terreno, nessun frutto naturale lo illeggiadriva con la sua freschezza. Non era buona né originale, non faceva che ripetere le belle frasi imparate nei libri, non esprimeva mai, perché ne era priva, un'opinione sua propria. Affettava un'indole sensibile e ardente, ma non conosceva né la simpatia né la compassione, e non vi era in lei né tenerezza né franchezza. E lo tradiva molto spesso, dando indebitamente sfogo alla sprezzante antipatia che aveva concepito per Adele. Ogni qualvolta la bambina le si avvicinava, la respingeva con un epiteto ingiurioso e la trattava sempre con durezza ed acrimonia, giungendo persino a ordinarle di lasciare la stanza. Altri occhi, oltre i miei, studiavano le manifestazioni di quel carattere, le studiavano di continuo, attentamente e severamente. Sì, il signor Rochester stesso, il futuro sposo, esercitava sulla fidanzata una continua sorveglianza e quella sua sagacia, quella sua lucidità, quella coscienza così chiara e netta dei difetti della bella Blanche, quell'evidente mancanza di passione nei suoi sentimenti verso di lei, era ciò che precisamente mi faceva soffrire. Vedevo che l'avrebbe sposata per ragioni di famiglia, forse per ragioni politiche, perché il rango e le parentele di lei gli convenivano. Sentivo che non le aveva dato il suo amore e che le qualità di lei erano le meno adatte a conquistare quel tesoro. Era questo il punto sensibile e dolente che generava e alimentava la mia febbre. Ella non poteva piacergli. Se fosse riuscita a conquistarlo subito, se egli avesse deposto sinceramente il suo cuore ai piedi di lei, mi sarei coperta il viso, voltata verso il muro e, in senso figurato, sarei morta per loro. Se la signorina Ingram fosse stata nobile e buona, dotata di forza, calore, gentilezza, assennatezza, avrei sostenuto una lotta violenta con due tigri, la gelosia e la disperazione, ma poi, sebbene col cuore lacerato, l'avrei ammirata e, riconoscendo la sua eccellenza, sarei rimasta calma per il resto dei miei giorni. Più palese fosse stata la sua superiorità, più la mia ammirazione sarebbe stata profonda e avrei accettato i fatti con vera serenità. Ma così, come stavano le cose, vedere gli sforzi che ella faceva per affascinare il signor Rochester, assistere al loro ripetuto fallimento, del quale ella non si rendeva conto, perché credeva che ogni sua freccia colpisse nel segno e si inorgogliva sempre più dei suoi successi, senza capire che proprio quel compiacimento e quell'orgoglio ripugnavano a colui che ella voleva sedurre. Essere testimone di tutto questo significava per me fingere di continuo e sottopormi a un controllo tanto più severo quanto più cresceva la mia irritazione. Perché ogni qualvolta la signorina Ingram falliva il colpo, vedevo bene in qual modo invece avrebbe potuto riuscire. I dardi che tanto di frequente si spuntavano contro il petto del signor Rochester per cadere innocui ai suoi piedi, sarebbero invece penetrati profondamente nel suo cuore orgoglioso. Se una mano più ferma li avesse scagliati, avrebbero potuto far brillare l'amore nei suoi occhi cupi e addolcire il suo volto sardonico, o meglio ancora, senza arma alcuna, ella avrebbe potuto riportare una silenziosa vittoria. Perché non ha maggiore influenza su di lui quando può stargli sempre tanto vicina, mi chiedevo. Certamente non l'ama, o perlomeno non di un amore sincero, perché se così fosse non avrebbe bisogno di prodigarsi in sorrisi, in moine, in occhiate. Mi sembra che si accosterebbe assai di più al suo cuore, standogli semplicemente seduta a fianco, parlando poco e guardandolo ancor meno. So che il signor Rochester può avere un'espressione molto più dolce di quella che gli vedo in viso quando la signorina Ingram lo circuisce delle sue grazie, ma l'espressione della quale parlo era spontanea, non provocata dalle arti civettuole e da manovre calcolate. Bastava stargli accanto in silenzio, rispondere senza pretese alle sue domande, rivolgergli la parola senza smorfie. Perché egli si faceva sempre più dolce e più gentile, riscaldando gli altri del suo proprio cuore. Come farà a piacergli quando saranno sposati? Non credo che ci riuscirà, eppure sarebbe così facile. E sua moglie potrebbe essere, credo, la donna più felice della terra. Nulla di quanto detto può far supporre che io biasimassi il progetto del signor Rochester di sposarsi per calcolo e per convenienza. Quando mi accorsi della sua intenzione, ne fui sorpresa, perché non mi sembrava uomo che simili motivi potessero influenzare nella scelta di una moglie. Ma poi, più consideravo la condizione sociale, l'educazione, i principi accettati nella classe alla quale appartenevano entrambi, meno trovavo giusto giudicarli e biasimarli se agivano conformemente alle idee instillate loro, senza dubbio, fin dalla prima infanzia. Tutta la loro classe si atteneva a quei principi e mi rendevo conto di non poter capire le ragioni per le quali lo facevano. Mi sembrava che fossi stata al posto suo, avrei scelto soltanto una donna che potessi amare, ma il fatto stesso che i vantaggi derivanti alla felicità coniugale da un simile progetto fossero tanto ovvi, Mi convinse che se non veniva generalmente adottato, dovevano esservi a suo sfavore argomenti dei quali non ero a conoscenza, altrimenti tutti avrebbero agito come avrei desiderato io. Non soltanto su questo punto, bensì su molti altri diventavo indulgente verso il mio padrone, stavo dimenticando tutti i suoi difetti che prima osservavo con occhio severo. Un tempo avevo tentato di studiare tutti i lati del suo carattere per formarmi, soppesando onestamente sia quelli buoni che quelli cattivi, un equo giudizio su di lui. Ora i lati cattivi non li vedevo più, il sarcasmo che poche settimane prima mi aveva offesa, la durezza che aveva suscitato in me un senso di rivolta, ora mi sembravano soltanto il piccante condimento di un piatto prelibato. Erano pungenti, ma se fossero venuti a mancare avrei trovato il piatto insipido. Quanto all'espressione ambigua, torva o dolorosa, disperata o proterva, che un osservatore attento poteva ogni tanto veder balenare nei suoi occhi, ma che poi spariva prima che se ne potesse intendere la strana profondità, quella incomprensibile espressione che soleva colmarmi di sgomento, come se mi fossi trovata a camminare tra le colline vulcaniche e a un tratto la terra mi si fosse aperta sotto i piedi. Ad intervalli io la vedevo ancora, con il cuore turbato, ma senza sentirmi più paralizzata. Invece di desiderare di non vederla, cercavo di indovinarla e giudicavo fortunata la signorina Ingram, perché un giorno ella avrebbe potuto esplorare a piacere quell'abisso, carpirne i segreti e analizzarne la natura. Mentre io non pensavo che al mio padrone e alla sua futura sposa, non vedevo che loro, non ascoltavo che le loro parole. Gli altri ospiti del signor Rochester erano ugualmente occupati dai loro interessi e dai loro piaceri. Lady Ingram e Lady Lynn continuavano a tenersi compagnia, discorrendo insieme con aria solenne, ora scrollando i turbanti, ora alzando le mani in gesti di stupore, di mistero o di orrore a seconda dell'argomento delle loro chiacchiere, simili in tutto a due grandi fantocci. La dolce signora Dent si intratteneva con la signora Ashton ed entrambe mi rivolgevano ogni tanto un sorriso o una parola cortese. Sir George Lynn, il colonnello Dent e il signor Ashton parlavano di politica, di affari riguardanti la contea o di casi legali. Lord Ingram corteggiava Amy Ashton, Luisa suonava e cantava con uno dei giovani. Lynn e Mary Ingram ascoltava con aria languida i discorsi degli altri. Qualche volta tutti, come per un'intesa, interrompevano la loro conversazione per osservare ed ascoltare gli attori principali, cioè il signor Rochester e la signorina Ingram, che erano l'anima e il centro della compagnia. Bastava che il signor Rochester si assentasse per un'ora, perché una specie di torpore si impadronisse degli ospiti, i quali ritrovavano la loro vivacità soltanto quando egli ricompariva. Il bisogno di quella presenza animatrice si fece particolarmente sentire il giorno in cui i suoi affari lo chiamarono a Millcote, di dove non sarebbe tornato che sul tardi. Il tempo era piovoso e la gita che la comitiva aveva divisato di fare nel pomeriggio ad un accampamento di zingari giunti da poco nei dintorni di Hay fu rimandata. I signori andarono a visitare le stalle, ma i più giovani si misero a giocare al biliardo insieme alle ragazze, mentre Lady Ingram e Lady Lynn iniziavano una partita a carte. Blanche Ingram, dopo aver deluso col suo sdegnoso silenzio i tentativi delle signore Dent e Ashton di farla partecipare alla loro conversazione, per un po' aveva canticchiato una romanza sentimentale accompagnandosi al pianoforte. Poi aveva preso un romanzo dalla biblioteca ed ora, sdraiata su un divano e sempre chiusa nel suo mutismo, si preparava ad ingannare leggendo le ore tediose dell'attesa. Tutta la casa era silenziosa, soltanto di quando in quando giungevano dalla sala del biliardo le allegre risate dei giocatori. Annottava, e già era suonata la campana che avvertiva le signore di andare a vestirsi per il pranzo, quando Adèle, che stava con me alla finestra del salotto, ad un tratto esclamò: «Voilà, monsieur Rochester qui revient!» Mi voltai. La signorina Ingram, alzatasi in fretta dal divano, corse alla finestra e anche gli altri interruppero le loro occupazioni, poiché in quel momento si udirono scricchiolare le ruote di una carrozza sulla ghiaia del viale. Una sedia di posta stava avvicinandosi. «Come mai torna in carrozza?» disse Blanche Ingram. «Montava Mesrour, non è vero, quando è partito?» E pilota lo accompagnava, che ne ha fatto del cane e del cavallo? Così dicendo, si accostò alla finestra tra un fruscio di sete, ed io, per farle posto, dovetti addossarmi al muro. Nella fretta, tutta prima, non si era accorta di me, ma quando mi vide, si scostò con una smorfia di disprezzo, andando ad affacciarsi a un'altra finestra. La carrozza si fermò, il cocchiere venne a suonare alla porta, e dalla vettura scese un signore vestito da viaggio. Ma non era il signor Rochester, bensì un forestiero alto ed elegante. Che seccatura! Esclamò Blanche Ingram. E tu, insopportabile scimmietta, apostrofando Adele, chi ti ha messo alla finestra per dare notizie false? E mi gettò uno sguardo inviperito come se fossi io la responsabile. Dal vestibolo giunse un suono di voci, poi il forestiero fu introdotto. Fece un inchino a Lady Ingram, evidentemente ritenendola la signora più anziana tra i presenti. Pare, signora, che io abbia scelto male il momento della mia visita, disse, perché il mio amico, il signor Rochester, è assente, ma arrivo da un lungo viaggio e credo di poter contare sulla nostra antica amicizia per aspettarlo qui sino al suo ritorno. Aveva modi cortesi e rimasi colpita dal suo accento insolito, non proprio straniero, ma neppure inglese. Poteva avere l'età del signor Rochester, fra i 30 e i 40, e se non fosse stato per la carnagione giallastra, si sarebbe detto un bell'uomo, soprattutto a prima vista. Osservandolo meglio, si scopriva in quel viso qualche cosa di sgradevole, o meglio, che la sua fisionomia mancava di ciò che è fatto per piacere. Aveva fattezze regolari, ma flosce. Gli occhi erano grandi e ben tagliati, ma senza vita, senza anima, almeno così mi parve. Il suono della campana disperse gli ospiti, e soltanto dopo pranzo rividi lo straniero. Non era più impacciato, ma mi piacque ancor meno di prima. Ciò che più mi colpiva era la fissità e al tempo stesso l'irrequietezza di quel volto. Lo sguardo vagava qua e là, ma come se non vedesse, e questo gli dava una strana espressione che non avevo mai osservato in nessun altro. Non so perché mi ripugnasse tanto, visto che era un bell'uomo, ed anche di modi amabili, ma non vi era energia in quel viso ovale dalla pelle liscia, non vi era fermezza in quel naso aquilino e nella piccola bocca rossa. Non vi era un pensiero su quella fronte bassa e senza rughe, né espressione in quei vuoti occhi scuri. Mentre sedevo nel mio solito angolo, l'osservavo alla luce dei doppieri del caminetto che batteva in pieno sul suo viso, poiché egli occupava una poltrona proprio di fronte al fuoco e continuava ad avvicinarvisi sempre più come se avesse freddo. Io paragonai al signor Rochester. E mi parve, sia detto con il debito rispetto, che tra un papero e un falco, tra una pecora e il candaguardia dal pelo arruffato e l'occhio attento, non vi fosse maggiore differenza che tra quei due uomini. Aveva parlato del signor Rochester come di un vecchio amico, che curiosa amicizia doveva essere stata la loro, fedele illustrazione del vecchio adagio, gli estremi si toccano. Due o tre signori circondavano lo sconosciuto e di tanto in tanto qualche brano della loro conversazione giungeva sino a me. In principio non capivo nemmeno quel poco che udivo, perché Louisa Ashton e Mary Ingram, sedute vicino a me, confondevano con il loro chiacchierio i frammenti di frase che riuscivo a cogliere. Le due ragazze parlavano dello straniero ed erano d'accordo nel trovarlo un bell'uomo. Louisa diceva che era un amore e che lei già lo adorava, e Mary asseriva che quella piccola bocca e il naso delicato rispondevano al suo ideale dell'uomo affascinante. E che bella fronte ha, serena e liscia, esclamò Luisa, senza quei solchi, quel cipiglio che detesto, che sguardo tranquillo, che sorriso gentile. Finalmente, con mio grande sollievo, il signor Henry Lynn le chiamò dall'altra parte del salotto per decidere quando avrebbero fatto la gita nei dintorni di Hay, rimandata a causa della pioggia. Potei così concentrare la mia attenzione sul gruppo attorno al caminetto. Ed appresi allora che il nuovo venuto si chiamava Mason, che era giunto in Inghilterra di recente e che proveniva da un paese caldo. Questo spiegava il colorito smunto e giallastro del suo viso e perché avesse tanto freddo e si tenesse il mantello sulle spalle anche in casa. Poi le parole Jamaica, Kingston, Spanish Town mi appresero che abitava nelle Indie occidentali e fui non poco meravigliata quando lo sentii dire che là aveva conosciuto per la prima volta il signor Rochester. Poi egli raccontò che il suo amico non s'era trovato bene in quella torrida regione e che ne detestava gli uragani e le piogge. Sapevo che il signor Rochester aveva viaggiato molto, me lo aveva detto la signora Fairfax, ma non mi era mai passato per la mente che fosse uscito dai confini dell'Europa, perché fino a quel momento nessuno aveva mai parlato di quei suoi viaggi in terre tanto lontane. Riflettevo su questa scoperta quando un avvenimento del tutto inaspettato interruppe il corso delle mie meditazioni. Il signor Mason, che tremava di freddo ogni qualvolta aprivano la porta, chiese che portassero altro carbone, sebbene il fuoco diffondesse ancora un buon calore. Il domestico che portò il carbone, uscendo, si fermò accanto al signor Ashton, che gli disse qualche cosa a bassa voce. Udì soltanto queste parole, una vecchia, noiosa e misteriosa. «Ditele che la faremo mettere in prigione se non se ne va», esclamò il magistrato. No, aspetta, si intromise il colonnello Dent. Non la mandare via, Ishton. Forse possiamo servircene. Interroghiamo le signore. E a voce alta continuò: Signore, volevate andare all'accampamento degli zingari? Sam dice che una di quelle vecchie streghe è entrata in casa e insiste per essere ricevuta. Vuol dire la sorte a lor signori. Desiderate vederla? Ma come, colonnello? Esclamò Lady Ingram. Non vorrà incoraggiare quella genia di imbroglioni. La faccia cacciar fuori subito. Non so come fare, signora, disse Sam. Non ci siamo riusciti né io né gli altri, ma ora c'è di là la signora Fairfax che cerca di persuaderla. Lei invece si è seduta in un angolo e dice che non se ne andrà fino a quando non otterrà il permesso di entrare qui. E che cosa vuole? Chiese la signora Ishton. Dire la sorte ai signori e ha giurato che lo farà. Com'è? Domandarono all'unisono le ragazze Ishton. Ah, oh, vecchia e orribile, signorine, nera come la fuliginia. Una vera strega, allora, disse Frederick Lynn, perché non la facciamo entrare? Certo, fece eco suo fratello, sarebbe un peccato rinunciare a un simile spasso. Ragazzi miei, che cosa vi viene in mente? Gli ammonì la madre, Lady Lynn. Non sopporterò una cosa simile, aggiunse Lady Ingram. Ma no, mamma, la sopporterai, disse allora Blanche con la sua voce imperiosa, voltandosi sullo sgabello del pianoforte, dove fino a quel momento era rimasta a leggere uno spartito. Sono curiosa di sentirmi dire la sorte. Sam, fate entrare la vecchia. Ma Blanche, cara, pensa, so tutto quello che vuoi dirmi, ma farò come voglio. Sbrigatevi, Sam. Sì, fatela entrare, ci divertiremo, esclamarono in coro tutti i giovani. Il domestico esitava. È così sporca, obiettò un'ultima volta. Andate, intimò Blanche, e Sam uscì. Subito la conversazione si fece animata e tutti scherzavano e ridevano quando Sam ritornò dicendo: Ora non vuole venire, dice che non è suo compito mostrarsi al gregge volgare, sono le sue parole. Vuole essere condotta in una stanza a parte dove quelli che desiderano consultarla si recheranno uno alla volta. Vedi adesso mia superba Blanche, che comincia già a passare i limiti, cominciò Lady Ingram. Sì, ragionevole angelo mio, eh. Fatela entrare in biblioteca. Tagliò corto l'angelo. Non è neppure compito mio ascoltarla davanti al gregge volgare. Voglio essere sola con lei. C'è il fuoco acceso in biblioteca? Sì, signorina, ma quella donna ha l'aria così losca. Basta con le chiacchiere, stupido, e obbedite. Sam scomparve e il mistero, l'attesa, crearono di nuovo in salotto un'atmosfera ansiosa ed eccitata. È pronta ora, disse il domestico rientrando, e vuol sapere chi andrà da lei per primo. Sarà bene che vada avanti io prima delle signore, disse il colonnello Dent. Avvertitela, Sam, che andrà da lei un signore. Sam uscì e tornò subito. Dice che non vuole ricevere i signori, annunciò, e che non occorre si disturbino a recarsi da lei, e neppure le signore anziane, aggiunse trattenendo a stento un risolino. Vuol soltanto le giovani e non maritate. Perbacco, a buon gusto, esclamò Erlin. La signorina Ingram si alzò solennemente. Andrò io per prima. Disse con l'accento di un condottiero che si slancia in un'impresa disperata alla testa dei suoi uomini. Oh, tesoro, mia cara, aspetta, rifletti, esclamò la madre. Ma Blanche le passò davanti muta, varcò alteramente la porta tenuta aperta dal colonnello Dent e la sentimmo entrare in biblioteca. Dopo che fu uscita, subentrò un certo silenzio. Lady Ingram credette il caso di torcersi le mani e lo fece. La signorina Mary dichiarò che quanto a lei non avrebbe mai osato recarsi dalla strega. Amy e Louisa Ishton ridacchiavano, ma sembravano nervose e forse anche un po' spaurite. I minuti trascorrevano lentamente, ne passarono 15 prima che la porta della biblioteca si riaprisse. Finalmente Blanche Ingram ricomparve in salotto. Avrebbe riso? Avrebbe messo in burla quell'avventura? Tutti gli sguardi si fissarono avidamente su di lei, ma ella rispose a quel muto interrogatorio con un'occhiata gelida e distratta. Non appariva allegra né turbata e si diresse al suo posto altezzosa come sempre, mettendosi a sedere in silenzio. Ebbene, Blanche? Domandò Lord Ingram. Che cosa ti ha detto? Le chiese la sorella. Che effetto ti ha fatto? Che ne pensi? È davvero un'indovina? Vollero sapere le signorine Ishton. Miei cari, rispose la signorina Ingram, non mi soffocate di domande. La vostra curiosità e la vostra credulità si eccitano davvero facilmente. Dall'importanza che tutti, compresa mia mamma, attribuite a questa storia, si direbbe che crediate di avere in casa una vera maga, un'alleata del demonio. Ho veduto soltanto una zingara vagabonda che mi ha letto la mano come una qualsiasi chiromante, dicendomi le solite banalità. Ho soddisfatto il mio capriccio e credo che il signor Ishton farà bene a mandarla in prigione domani. Detto questo, la signorina Ingram prese un libro e, mollemente adagiata sul divano, cominciò a leggere, scoraggiando così chi ancora avesse avuto interrogarla. La osservai per quasi mezz'ora. In tutto quel tempo non voltò mai una pagina e il suo viso, sempre più scuro, esprimeva irritazione e malcontento. Evidentemente aveva udito cose sgradevoli e, vedendola così taciturna e indispettita, capii che, nonostante avesse simulato indifferenza, attribuiva invece grande importanza alle rivelazioni della zingara. Frattanto, Mary Ingram e le due sorelle Ishton avevano dichiarato che non sarebbero andate sole dall'indovina, ma che lo desideravano. Allora fu deciso di scendere a negoziati per tramite di Sam, il quale andò e tornò tante di quelle volte che credo gli dolessero le gambe. Ma infine, dopo molte difficoltà, la rigorosa Sibilla consentì a ricevere insieme le tre ragazze. Il loro incontro non fu così silenzioso come quello di Blanche. Giunsero fino a noi dalla biblioteca, risatine nervose, piccole grida, e dopo una ventina di minuti le vedemmo ricomparire di corsa come se qualche cosa le avesse spaventate. «Quella non è una zingara qualunque!» esclamarono tutte insieme. «Ci ha detto certe cose, sa tutto di noi!» E si lasciarono cadere, senza fiato, sulle sedie che i giovanotti si erano affrettati a porgere loro. Richieste di spiegarsi meglio, dichiararono che la zingara aveva rievocato fatti e parole della loro infanzia, descrivendo come se li avesse visti i libri e i gingilli dei salotti di casa e i regali che avevano ricevuto dai vari parenti. Affermarono inoltre che la strega conosceva anche i loro pensieri e aveva bisbigliato all'orecchio di ognuna il nome della persona a cui volevano più bene, predicendo ciò che maggiormente desideravano sapere. Su questi due ultimi punti i giovanotti pretesero informazioni più precise, ma la loro insistenza non ottenne che rossori, balbettii e sorrisetti imbarazzati. Le mamme intanto mettevano loro sotto il naso i sali odorosi, agitando i ventagli e continuando a deprecare che i loro ammonimenti non fossero stati ascoltati in tempo. I vecchi signori ridevano e i giovani si affannavano a offrire i loro servigi alle belle imprudenti. In mezzo a quel trambusto, mentre ero tutta occupata a guardare la scena che si svolgeva davanti a me e a cogliere le battute, qualcuno si chinò al mio orecchio. Mi voltai e vidi Sam. «Scusi, signorina, la zingara dice che in sala c'è un'altra persona che non l'ha ancora consultata e giura di non andarsene finché non le avrà viste tutte. Ho pensato che si trattasse di lei perché non ne rimangono altre. Che cosa devo dirle?» «Ci vado senz'altro», risposi, contenta di poter appagare, quando meno me lo aspettavo, la mia eccitata curiosità. Sgattaiolai fuori dal salotto del tutto inosservata, poiché la compagnia faceva ressa attorno al terzetto ancora tremante, e richiusi piano la porta alle mie spalle. «Se vuole, signorina», mi disse Sam, «aspetterò nel vestibolo e se avesse paura chiami che verrò subito». «No, Sam, tornate in cucina, non ho paura». Ed era vero, mi sentivo soltanto eccitata e incuriosita. Capitolo 19. La biblioteca era tranquilla, come sempre, quando vi entrai, e la Sibilla, se Sibilla era, se ne stava comodamente seduta in poltrona di fianco al camino. Indossava un mantello rosso e una specie di cuffia nera, o meglio, un cappello a larghe tese che un fazzoletto di cotone legato sotto il mento teneva aderente al viso. Sul tavolo vi era una candela spenta e la zingara, china sopra il fuoco, leggeva alla luce delle braci un volumetto che sembrava un libro di preghiere. E ne borbottava ad alta voce le parole, come fanno talvolta le vecchie quando leggono. Quando entrai, non smise subito, come se volesse arrivare alla fine di un paragrafo. Mi avvicinai al camino per scaldarmi le maniche in salotto dove sedevo lontana dal fuoco mi si erano raffreddate. Ora mi sentivo calma e tranquilla, come non mai, e del resto, nell'aspetto della zingara, non vi era nulla che potesse turbarmi. Infine la chiuse il libro e lentamente alzò gli occhi su di me. La falda del cappello le celava una parte del viso, ma quel poco che potei vedere mi parve singolare. La carnagione era scurissima e qualche ricciolo stopposo le sfuggiva da una pezzuola bianca che le fasciava metà delle guance, o meglio, delle mascelle, passandole sotto il mento. I suoi occhi si fissarono su di me con uno sguardo penetrante e ardito. «Dunque, vuole che le dica la sorte?» disse con una voce decisa come lo sguardo e dura come il suo viso. Non mi interessa molto, ma può dirmela se vuole. L'avverto però che non sono una ragazza credula. Ecco, un'impudenza che non mi meraviglia di lei. Me l'aspettavo e il suo passo l'annunciava mentre varcava la porta. Davvero? Ha udito fine? Sì, e occhio e cervello pronti. Tutte cose utili nel suo mestiere. Infatti, specialmente quando ho a che fare con clienti come lei, perché non trema? Non ho freddo? Perché non impallidisce? Non mi sento male? Perché non consulta la mia arte? Non sono sciocca. La vecchia represse un sorriso sotto la cuffia e la fasciatura, poi si tolse di tasca una corta pipa nera, l'accese e si mise a fumare. Dopo essersi concessa una breve pausa, raddrizzò la curva persona, si levò la pipa dalle labbra e fissando il fuoco, disse risolutamente. Lei ha freddo, non sta bene ed è sciocca. Lo provi, ribattei. Mi basteranno poche parole. Ha freddo perché è sola e nessun contatto dà esca al fuoco che arde in lei. Non si sente bene perché il migliore, il più nobile, il più dolce dei sentimenti concessi agli uomini si tiene lontano da lei. È sciocca perché, per quanto soffra, lei non lo inviterà mai ad avvicinarsi, né mai muoverà un passo per incontrarlo laddove esso l'aspetta. Si rimise di nuovo la pipa tra le labbra, tirandone energiche boccate. Potrebbe dire le stesse cose quasi a qualunque persona della quale lei sappia che vive sola e come dipendente in una grande casa. Sì, potrei dirlo quasi a chiunque, ma sarebbe vero per tutti? Se fossero nelle mie condizioni, sì. Appunto, nelle sue condizioni, ma mi trovi un'altra persona che sia esattamente nelle sue stesse condizioni. Oh, sarebbe facile trovarne a migliaia. Ed io le dico che stenterebbe a trovarne una. Se vuol saperlo, lei è in una curiosa situazione molto vicina alla felicità. Sì, l'ha quasi a portata di mano. Gli elementi sono tutti pronti, non resta che fare un movimento per combinarli. Il caso li ha posti un po' distanti l'uno dall'altro, ma faccia sì che si uniscano e ne risulterà la felicità. Non capisco gli enigmi, non sono mai riuscita a spiegarne uno in vita mia. Se vuole che le parli in modo più comprensibile, mi mostri il palmo della mano. E devo mettervi sopra una moneta, non è vero? Certo. Le diedi uno scellino ed ella lo ripose in una vecchia calza toltasi di tasca. Poi la legò, la nascose di nuovo ed infine mi disse di mostrarle la mano. Ubbidì, la vecchia vi accostò il viso e l'esaminò senza toccarla. È troppo fine, disse. Non vi sono linee, non posso farne nulla di una mano come questa. E poi che cosa si può leggere in un palmo? Il destino non sta scritto lì. Ah, lo credo, risposi. No, continuò ella, sta scritto sul viso, sulla fronte, negli occhi, nelle linee della bocca. Si inginocchi e alzi il capo. Ah, ora lei si avvicina alla realtà, osservai mentre ubbidivo. Forse tra poco comincerò a crederle. Mi inginocchiai a poca distanza da lei, ella rimosse il fuoco e dai tizzi salì un vivo chiarore, ma mentre io mi trovavo in piena luce, quel riverbero su di lei che era seduta non fece che addensare maggiormente l'ombra. Vorrei sapere con quali sentimenti è venuta qui questa sera, disse dopo avermi scrutata per un poco. Vorrei sapere quali pensieri occupano la sua mente nelle lunghe ore che trascorre in salotto con quella gente elegante che le volteggia davanti come le ombre di una lanterna magica, perché tra lei e quelle persone intercorre così poca simpatia, come se realmente esse fossero ombre di esseri umani e non uomini veri. Spesso mi sento stanca, qualche volta mi viene sonno, ma raramente sono triste. Allora è animata da qualche speranza segreta che le mormora all'orecchio piacevoli promesse per il futuro. No, tutto ciò che spero è di poter risparmiare abbastanza di ciò che guadagno per poter un giorno aprire una scuola in una casetta affittata a me. Lo spirito non si accontenta di sì magro nutrimento, e quando lei sta seduta presso la finestra, vede che conosco le sue abitudini. Oh, le avrà sapute dalla servitù. Lei crede d'essere furba, vero? Ebbene, forse sì. Per essere sincera, conosco una delle domestiche, la signora Poole. Sussultai nell'udire quel nome. Ah, la conosce, pensai. Qui c'è sotto qualche cosa di diabolico. Non si allarmi, riprese la strana creatura. La Poole è una donna sicura, seria e di molto buon senso. Di lei ci si può fidare. Ma come dicevo, non pensa ad altro che alla sua futura scuola, lei, quando se ne sta nel suo angolo preso alla finestra? Nessuna delle persone che occupano i divani e le sedie a pochi passi da lei la interessa? Non ha mai studiato nessuno di quei visi, non segue perlomeno con curiosità i movimenti di qualcuno di loro. Mi piace osservare tutti i volti e tutte le persone, ma non ve n'è una, o forse anche due, che l'attirino più di tutti gli altri? Oh sì, e spesso anche. Quando i gesti e le espressioni di due persone mi fanno supporre che stiano raccontandosi una storia, allora sì che mi diverto ad osservarle. E quali sono le storie che ascolta più volentieri? Non ho molta scelta, per lo più si aggirano tutte sullo stesso tema, l'amore, e promettono tutte la stessa catastrofica conclusione, il matrimonio. Le piace quel tema monotono? Sinceramente me ne importa ben poco, mi è del tutto indifferente. Non la interessa? Quando una donna giovane e bella, piena di vita e di salute, dotata di tutti i privilegi che le conferiscono il rango e la ricchezza, sorride a un uomo guardandolo negli occhi? Lei, signorina, io che cosa? Se si tratta di un uomo che lei conosce e che trova simpatico, non conosco nessuno dei signori che si trovano qui. Non ho quasi scambiato parola con loro e in quanto a trovarli simpatici, gli anziani mi sembrano rispettabili e dignitosi e i giovani belli, brillanti e pieni di vita. Ma certo, sono tutti liberi di accettare sorrisi da chiunque loro piaccia, senza che questo mi tocchi in alcun modo. Lei non conosce nessuno di quei signori? Non ha mai scambiato parola con alcuno di loro? Ma è il padrone di casa, non vorrà sostenere di non avergli mai parlato. È assente. Che profonda osservazione e che ingegnosa scappatoia. Si è recato a Millcote questa mattina e tornerà in serata o domani, e questa circostanza le basta per escluderlo dall'elenco delle persone che conosce? Per cancellarlo come se non esistesse? No, ma non vedo che cosa abbia a che fare il signor Rochester con ciò che lei ha detto poco fa. Ho parlato di giovani donne che sorridono agli uomini, e ultimamente tanti sorrisi sono stati versati negli occhi del signor Rochester che ne traboccano come coppe piene. Lei non se n'è mai accorta? Il signor Rochester ha il diritto di godere della compagnia dei suoi ospiti. Non parlo di diritti. Non ha mai osservato che di tutte le storie raccontate qui sul tema del matrimonio al signor Rochester è stata riservata la più lunga e la più animata? La curiosità di chi ascolta stimola la fantasia di chi narra, dissi più a me stessa che alla zingara, la cui vicinanza, non so se per la singolarità dei modi, della voce e di tutto il suo contegno, mi immergeva lentamente in una specie di dormiveglia. Dalle sue labbra fluivano una dopo l'altra frasi inaspettate in cui intuivo invano, dibattendomi, non so quale mistificazione, che di momento in momento mi irretiva sempre di più, e mi chiedevo quale spirito invisibile si fosse insediato da settimane nel mio cuore, studiandone i moti e ascoltandone le pulsazioni. La curiosità di chi ascolta, ripeté la zingara. Sì, il signor Rochester ha prestato orecchio per ore alle labbra affascinanti che assolvevano con palese delizia il compito di parlargli. Pareva felice di ascoltare, riconoscente della distrazione che gli veniva offerta, questo lo ha notato? Riconoscente? Non ricordo di aver mai scorso un'espressione di gratitudine sul suo volto. No? Questo significa che lo ha analizzato. E se non la gratitudine, che cosa vi ha scorto? Non risposi. Lei vi ha visto l'amore, non è vero? E guardando avanti lo ha visto sposato con una donna felice di esser sua. Non precisamente. Il suo intuito di indovina qualche volta falla. Allora che cosa diavolo ha veduto? Questo non ha importanza. Sono venuta qui per interrogare, non per confessarmi. Sa che il signor Rochester prende moglie? Sì? E sposa la bella signorina Ingram? Presto? Oh, le apparenze sembrano confermarlo. Indubbiamente sarebbe una coppia felicissima, anche se lei, con un'audacia che meriterebbe di essere punita, sembra metterlo in dubbio. Egli ama certo una donna tanto bella, nobile, compita e brillante, e anche lei probabilmente lo ama, se non lui, almeno la sua borsa. So che le fanno gola le proprietà del signor Rochester, sebbene poco fa, Dio mi perdoni, io le abbia detto a questo proposito qualche cosa che l'ha resa straordinariamente preoccupata. Ho visto sulla sua bocca una smorfia di disappunto. Consiglierei al suo incauto corteggiatore di tenere gli occhi aperti, perché se se ne presentasse un altro con un reddito più ingente o più sicuro, egli sarebbe messo da parte. Ma, vecchia, io non sono venuta qui per conoscere la sorte del signor Rochester. Voglio conoscere la mia e lei non me ne ha ancora detto nulla. La sua sorte è ancora incerta. Sul suo volto, come ho visto poco fa, un tratto contraddice l'altro. Il destino le riserva una parte di felicità. Lo so e lo sapevo ancor prima di venire qui perché ero presente quando l'ha misurata e messa in serbo. Ora dipende da lei stendere la mano e impadronirsene. Ma se lo farà o no è il problema che cerco di risolvere. Si inginocchi di nuovo davanti al fuoco. Faccia presto però perché mi brucia il viso, dissi inginocchiandomi. Ella non si chinò verso di me, ma si accontentò di guardarmi dal fondo della sua poltrona. Poi cominciò a mormorare. La fiamma si riflette nei suoi occhi che brillano come rugiada. Sono dolci e pieni di sentimento e le mie parole li fanno sorridere, segno che sorridere sanno. Le impressioni si susseguono nella loro orbita trasparente e quando non sorridono più si fanno tristi. Un'inconsapevole stanchezza ne appesantisce le palpebre. Ciò rivela uno stato malinconico che nasce dalla solitudine. Ora si distolgono da me, non vogliono più essere scrutati e pare che neghino con lo sguardo ironico la verità delle scoperte che ho già fatto, che rifiutino d'essere creduti, sensibili e tristi, ma questo orgoglio e questo riserbo non fanno che convincermi dell'esattezza della mia opinione fin qui favorevole. Quanto alla bocca, talvolta si compiace di ridere ed è disposta a narrare tutto ciò che il cervello concepisce, sebbene tenda a tacere ciò che il cuore sente, mobile e flessibile, non è mai stata destinata a rimanere chiusa nell'eterno silenzio della solitudine. È una bocca che potrebbe parlare molto e sorridere spesso e avere per interlocutore un essere amato. Anch'essa dunque merita un giudizio favorevole. Soltanto nella fronte vedo il nemico del destino felice che ho predetto. La fronte par che dica: posso vivere sola se la dignità e le circostanze lo richiedono. Non ho bisogno di vendere l'anima per acquistare la felicità. Ho dentro di me un tesoro innato che saprà farmi vivere se tutte le altre gioie mi saranno negate oppure offerte solamente a un prezzo che non posso pagare. La mia ragione è ferma e tiene saldamente le redini. Non permetterà al sentimento di disperdersi e di trascinarla in baratri senza fondo. La passione potrà scatenarsi furiosamente da vera pagana com'è. I desideri potranno immaginare ogni specie di cose irraggiungibili, ma la ragione dirà sempre l'ultima parola, e in ogni circostanza il voto decisivo sarà sempre il suo. La tempesta, il terremoto, il fuoco potranno passarmi accanto, ma io seguirò sempre i consigli della pur debole voce che interpreta la volontà della coscienza. Ben detto, fronte, la tua dichiarazione sarà rispettata, continuò la zingara. Io ho formato il mio piano e ritengo sia buono, perché formandolo ho ascoltato le richieste della coscienza e i consigli della ragione. So come la gioventù appassirebbe presto e perderebbe il fiore se nella coppa della felicità offerta fosse mescolata anche solo una stilla di vergogna o di rimorso. Non desidero né sacrificio, né rovina, né dolore. Non sono di mio gusto. Io voglio aiutare, non reprimere, meritare riconoscenza, non far scorrere sangue né lagrime. Il mio raccolto deve essere di sorrisi, d'affetto e tenerezza. Ecco che cosa fa per me. Ma io mi smarrisco in un delirio delizioso e ora vorrei protrarre all'infinito questo istante, ma non oso. Fin qui ho agito come dentro di me avevo giurato, ma se continuassi potrei trovarmi a un punto in cui le forze non mi reggerebbero più. Si alzi, signorina Eyre, e mi lasci. La commedia è finita. Dov'ero mai? Dormivo o ero desta? Avevo sognato o sognavo ancora? La voce della vecchia era cambiata, il suo accento, i gesti, tutto in lei mi era familiare, come il mio stesso viso in uno specchio, come il linguaggio che usciva dalle mie labbra. Mi alzai, ma non uscii. La guardai, attizzai il fuoco per vederla meglio, ma ella nascose vieppiù il viso sotto il cappello e il fazzoletto e mi ripeté di uscire. La fiamma illuminò la mano che aveva steso ed io, già insospettita, fissai quella mano. Non era più quella grinzosa di una vecchia, ma una mano agile, piena, dalle dita lisce e ben formate. Un grosso anello le brillava al mignolo e, chinandomi a guardarlo, riconobbi una gemma che avevo già visto 100 volte. Osservai di nuovo il viso che non si sottrasse più al mio sguardo, anzi, gettato indietro il cappello, tolto il fazzoletto, quel viso ora si protendeva verso di me. Ebbene, Jane, non mi riconosce? Chiese la voce ben nota. Si tolga quel mantello rosso, signore, e poi. Non riesco a sciogliere il nodo del cordone, mi aiuti. Lo strappi, signore. Allora, ecco via questa mascheratura. E il signor Rochester uscì dal suo travestimento. Ma signore, che idea strana. Però l'ho sfruttata bene, non le pare? Con le signore certo ha avuto successo. E con lei no? Con me non ha rappresentato la parte della zingara. E quale allora, forse la mia? No, lei ha rappresentato una parte inqualificabile. In breve ha cercato di strapparmi delle confidenze, ha detto tante cose senza senso perché ne dicessi anch'io. Non è stata una parte molto onesta, signore. Mi perdona, Jane? Non posso, prima di aver riflettuto su questo singolare colloquio, se ripensandoci mi accorgerò che lei non mi ha indotta a dire troppe assurdità, tenterò di perdonarle, ma non ha agito bene. Oh, lei è stata molto corretta, molto prudente e molto saggia. Riflettei un istante e in complesso mi parve d'essermi comportata proprio come diceva. Fu un conforto per me, anche se sapevo d'essere stata in guardia quasi fin dal principio del colloquio, sospettando un imbroglio, perché mi era noto che le zingare e le indovine non si esprimono con il linguaggio che invece usava quella vecchia. Inoltre mi ero accorta che falsava la voce e che era troppo preoccupata di nascondere il volto, e avevo pensato a Grace Poole, quell'enigma vivente, quel mistero dei misteri, come io la ritenevo. Ma non mi era mai passato per la mente che potesse trattarsi del signor Rochester. Ebbene, disse egli, a che cosa pensa? Che cosa significa quel sorriso grave? Meraviglia! E soddisfazione per il contegno che ho tenuto. Lei mi ha già dato il permesso di allontanarmi, non è vero, signore? No, rimanga un istante e mi dica che cosa fanno i miei ospiti in salotto. Parleranno della zingara, suppongo. Si sieda e mi racconti che cosa dicono di me. Preferirei andare, signore. Devono essere quasi le 11. Ah, signor Rochester, sa che questa sera è arrivata un'altra persona, un forestiero? Un forestiero? E chi può essere? Non aspettavo nessuno. È ripartito? No. Dice che la conosce da molto tempo e che poteva permettersi di aspettarla qui sino al suo ritorno. Al diavolo! Ha detto il suo nome? Mason, signore, e viene dalle Indie Occidentali, dalla Giamaica, credo. Il signor Rochester era in piedi accanto a me e mi aveva preso una mano come per farmi sedere. Quando ebbi finito di parlare, la stretta attorno al mio polso si fece convulsa, mentre il sorriso si spegneva sulle sue labbra e pareva che uno spasimo gli togliesse il respiro. Mason, le Indie Occidentali, ripeté come un automa. Mason, le Indie Occidentali, pronunciò una terza volta quelle parole, facendosi via via sempre più pallido. Sembrava quasi non sapesse più quel che diceva. Si sente male, signore? Jane, ho ricevuto un colpo, e barcollò. Si appoggi a me, signore. Jane, lei mi ha già offerto una volta la sua spalla, me la dia anche ora. Sì, signore, sì, e anche il braccio. Si sedette e mi fece cenno di prendere posto accanto a lui, tenendo una mia mano tra le sue e l'accarezzava guardandomi fisso con un'espressione smarrita e terribilmente triste. Mia piccola amica, disse, vorrei essere con lei sola, su un'isola tranquilla, liberato da ansie, da pericoli, da ricordi odiosi. Posso aiutarla, signore? Darei la mia vita per servirla. Jane, se avrò bisogno di aiuto, verrò a chiederlo a lei, glielo prometto. Grazie, signore. Mi dica che cosa devo fare e cercherò di accontentarla. Vada a prendermi un bicchiere di vino in sala da pranzo, Jane. Gli ospiti devono essere a tavola. Guardi se c'è anche Mason e che cosa fa. Andai e trovai infatti tutta la compagnia riunita per la cena, come aveva detto il signor Rochester, ma non erano seduti a tavola. Le vivande erano state preparate sulla credenza e ognuno si serviva da sé, scegliendo quello che voleva e gironzolando per la sala solo o in gruppo con il piatto o il bicchiere in mano. Sembravano tutti di ottimo umore e la conversazione era assai animata. Il signor Mason stava seduto accanto al fuoco conversando con la signora Dent e pareva allegro come gli altri. Riempii un bicchiere di vino, vidi la signorina Ingram gettarmi un'occhiata astiosa, giudicando probabilmente che mi prendevo troppa libertà. E ritornai in biblioteca. Il pallore era scomparso dal volto del signor Rochester, che ora appariva di nuovo fermo e severo. Mi prese il bicchiere di mano e disse: Alla sua salute, spirito benefico. Dopo aver bevuto, mi restituì il bicchiere domandandomi: Che cosa stanno facendo, Jane? Ah, chiacchierano e ridono, signore. Non hanno un'aria grave e misteriosa, come se avessero appreso qualche cosa di strano? Niente affatto, sono tutti allegrissimi. E Mason? Ride, come gli altri? Ah, se tutta quella gente entrasse qui ora e mi sputasse in viso, che cosa farebbe Jane? Li caccerei fuori dalla stanza, signore, se potessi. Ebbe un lieve sorriso e continuò. Ma se io mi accostassi a loro per salutarli ed essi invece mi guardassero freddamente, bisbigliando tra loro in tono di scherno e poi, senza rispondermi uno dopo l'altro, mi lasciassero, lei li seguirebbe, Jane? Non credo, signore, sarei più contenta di restare con lei. Per consolarmi? Sì, per consolarla, come meglio mi fosse possibile. E se la mettessero al bando per essermi rimasta fedele? Oh, probabilmente non lo saprei nemmeno, ma anche se dovessi venirne a conoscenza non me ne importerebbe affatto. Allora lei saprebbe per me sfidare l'opinione pubblica? La sfiderei per qualsiasi amico che fosse degno della mia fedeltà, come lei, ne sono certa lo è. Quando è così, Ritorni in sala, la prego. Si accosti senza dare nell'occhio al signor Mason e gli dica piano che il signor Rochester è tornato e desidera vederlo. Lo accompagni qui e poi ci lasci. Sì, signore. Feci quello che il signor Rochester mi aveva chiesto. Gli ospiti mi guardarono mentre passavo in mezzo a loro. Raggiunse il signor Mason, gli trasmisi il messaggio e poi lo precedetti fuori dalla sala, accompagnandolo fino in biblioteca, dove lo lasciai per salire in camera mia. A tarda ora, quando ero a letto già da un poco, sentii i passi degli ospiti che raggiungevano le loro camere. Distinsi tra le altre la voce del signor Rochester che diceva: «Da questa parte, Mason, ecco la sua stanza». Era la sua solita voce, anzi persino allegra, e ciò mi tranquillizzò e poco dopo mi addormentai.